E così ordinò ai lavoranti di costruire una piccola stanza e al suo interno una stufa di terra e comprò un buon calderone. E Cucù era contenta perché gli aveva detto: là cucinerai quello che vorrai. Quanto a Wang Lung, si disse che alla fine i suoi affari erano sistemati e le sue donne erano in pace e avrebbe potuto godere il suo amore. E di nuovo gli sembrava che non avrebbe mai potuto stancarsi di Loto e del modo in cui gli metteva il broncio con le palpebre abbassate come petali di giglio sui grandi occhi e del modo in cui il riso luceva nei suoi occhi quando li sollevava verso di lui. Ma alla fine la questione della nuova cucina divenne una spina nel suo fianco perché Cucù andava in città ogni giorno e comprava cibi costosi di ogni genere importati dalle città del sud. C'erano cibi di cui Wang Lung non aveva mai sentito il nome, licci e datteri canditi, e certi strani dolci di farina di riso, e noci e zucchero rosso, e dal mare il pesce cornuto e molte altre cose, e tutte costavano più soldi di quanti avrebbe voluto tirarne fuori. Comunque non così tanto credeva come gli diceva Cucù, eppure aveva paura di dire: state divorando la mia carne, temendo che lei si offendesse e si arrabbiasse con lui, e ciò avrebbe contrariato Loto. Quindi non poteva fare altro che mettere mano riluttante alla cintola. E giorno dopo giorno la cosa era per lui una spina, e siccome non poteva lamentarsi con nessuno, la spina affondava sempre più profondamente e raffreddava un po' del fuoco del suo amore per Loto. E c'era poi un'altra piccola spina che era spuntata dalla prima. Il fatto cioè che la moglie di suo zio, che amava il buon cibo, andasse spesso nella corte interna all'ora dei pasti e là acquistò confidenza. E Wang Lung non era contento che nella sua casa Loto scegliesse proprio lei come amica. Le tre donne mangiavano bene nelle corti interne e parlavano incessantemente, sussurrando e ridendo. E nella moglie di suo zio c'era qualcosa che a Loto piaceva. Le tre insieme erano felici e Wang Lung non era contento di questo. Ma anche qui non c'era niente da fare perché quando le disse gentilmente per blandirla: Loto, fiore mio, non sprecare la tua dolcezza con una vecchia e grassa megera come quella. Ne ho bisogno per il mio cuore. E lei è una creatura falsa e inaffidabile. Non mi piace che ti stia vicina dall'alba al tramonto. Loto ne fu irritata e rispose con stizza facendo il broncio e allontanando la testa da lui. Io non ho nessuno a parte te e non ho amici. E sono abituata a una casa allegra e nella tua non c'è nessuno oltre alla prima moglie che mi odia e ai tuoi figli che sono per me un tormento. E non ho nessuno. Allora usò le sue armi contro di lui e non lo fece entrare nella sua stanza quella notte e si lamentò e disse: tu non mi ami perché se mi amassi mi vorresti felice. Wang Lung si sentì umiliato e in ansia e divenne remissivo e gli dispiacque e disse: sia solo come vuoi tu, per sempre. Allora lei lo perdonò regalmente e lui ebbe ora paura di rimproverarla in qualsiasi modo per quel che voleva fare. E quando in seguito andava da Loto, se capitava che lei stesse parlando, bevendo il tè o mangiando dolciumi con la moglie dello zio, gli diceva di aspettare e lo trattava con indifferenza. Allora lui se ne andava arrabbiato perché Loto non voleva che lui andasse da lei quando quell'altra donna era seduta là e il suo amore si raffreddò un po' anche se non se ne accorgeva. Era inoltre arrabbiato perché la moglie di suo zio mangiava i ricchi cibi che lui doveva comprare per Loto e diventava grassa e unta più di quanto fosse stata in passato. Ma lui non poteva dire niente perché la moglie di suo zio era furba, si mostrava cortese con lui e lo adulava con belle parole e si alzava quando Wang Lung entrava nella stanza. E così il suo amore per Loto non era pieno e perfetto come era stato prima, quando gli assorbiva in maniera completa la mente e il corpo. Era tutto squarciato da piccoli scoppi di rabbia che erano tanto più taglienti perché dovevano essere sopportati e perché non poteva andare più liberamente a parlare con Olan, ora che le loro vite erano divise. Poi, come un campo pieno di rovi che spuntano da una radice e si diffondono da ogni parte, altri fastidi tormentarono Wang Lung. Un giorno suo padre, che si sarebbe detto non vedesse più nulla, tanto l'età aveva reso sonnolento, si svegliò all'improvviso dal suo sonno sotto il sole e appoggiandosi al bastone ornato con la testa di un drago che Wang Lung gli aveva regalato per il suo 70° compleanno, si diresse traballante verso la soglia chiusa da una tenda che separava la stanza centrale e la corte dove Loto camminava. Il vecchio non aveva mai notato la porta, nemmeno quando la corte era stata costruita, e sembrava non sapere se qualcun altro vivesse ora in casa oppure no. E Wang Lung non gli aveva mai detto a un'altra donna, perché il vecchio era troppo sordo per capire il senso di una voce, se questa gli diceva qualcosa di nuovo e a cui non aveva pensato. Ma quel giorno vide casualmente quella porta e si avvicinò e tirò la tenda, e successe in un'ora della sera, mentre Wang Lung camminava con Loto nella corte e stavano accanto alla vasca e guardavano i pesci. Ma Wang Lung guardava Loto. Quando il vecchio vide il figlio accanto all'esile donna truccata, gridò con la sua voce rotta e stridula: «C'è una prostituta in casa!» E non voleva tacere, anche se Wang Lung, temendo che Loto si arrabbiasse, quella piccola creatura era capace infatti di strillare e di gridare e battere le mani se si infuriava, condusse il vecchio fuori nella corte esterna e lo calmò dicendo: «Adesso calma il tuo cuore, padre, non è una prostituta, ma una seconda donna nella casa». Ma il vecchio non voleva tacere. E vuoi che avesse sentito o meno quel che gli era stato detto, continuò a gridare: «C'è qui una prostituta!» E all'improvviso disse, vedendo Wang Lung vicino a sé: «Io ho avuto una donna sola, e mio padre ha avuto una donna sola, e abbiamo coltivato la terra». E dopo un po' gridò nuovamente: «Dico che è una prostituta!» E così il vecchio si svegliò dal suo anziano sonno intermittente con una sorta di scaltro odio verso Loto. Andava sulla soglia della sua corte e all'improvviso gridava nell'aria: «Prostituta!» O tirava la tenda che introduceva nella sua corte e poi sputava furiosamente sulle piastrelle e andava in cerca di sassolini che lanciava con il braccio debole nella piccola vasca per spaventare i pesci, ed esprimeva la sua rabbia attraverso le cattiverie di un bambino dispettoso. E anche questo creò inquietudine nella casa di Wang Lung, che si vergognava a rimproverare suo padre, però temeva la rabbia di Loto dopo aver scoperto che aveva un bel carattere stizzoso e perdeva facilmente il controllo. E l'ansia di evitare che il padre la facesse arrabbiare lo opprimeva, ed era un'altra cosa che faceva del suo amore un fardello. Un giorno sentì uno strillo provenire dalle corti interne. Allora corse là perché era la voce di Loto. E vide che i due bambini più piccoli, il maschio e la femmina, nati identici, avevano portato là, prendendola ciascuno per una mano, la figlia più grande, la sua povera scioccherella. Gli altri quattro bambini provavano una grande curiosità per quella signora che viveva nella corte interna, ma i due maggiori erano consapevoli e timidi e sapevano abbastanza bene perché fosse lì e in che modo suo padre avesse a che fare con lei, anche se non la nominavano fra loro fuorché in segreto. Ma i due più piccoli non ne avevano mai abbastanza di spiare e uscirsene in gridolini e di annusare il suo profumo e infilare le dita nelle ciotole di cibo che Cucù portava fuori dalle sue stanze dopo che lei aveva mangiato. Molte volte Loto si era lamentata con Wang Lung che i suoi figli erano per lei un tormento e desiderava che ci fosse modo di chiuderli fuori così che non la seccassero, ma lui non ne aveva nessuna intenzione e le rispose scherzando: «Beh, anche a loro, come al loro padre, piace guardare un bel viso». E non fece nulla se non proibirgli di entrare nelle corti, e quando lui li vedeva, non lo facevano, ma quando non li vedeva, correvano dentro e fuori di nascosto. Ma la figlia maggiore non sapeva niente di niente, stava solo seduta al sole contro il muro della corte esterna, sorridendo e giocando con il suo pezzetto di stoffa attorcigliata. Quel giorno, tuttavia, visto che i due maggiori erano a scuola, i due bambini più piccoli avevano deciso che la scioccherella dovesse vedere la signora della corte interna, e così la presero per mano e la condussero nella corte, e lei si ritrovò davanti a Loto, che non l'aveva mai vista, e stava seduta e la osservava fissamente. Quando la piccola scioccherella vide la seta luminosa della giacca di Loto e la giada scintillante alle sue orecchie, fu presa da una strana gioia e tese le mani per afferrare quei colori luminosi. E rise forte, una risata che era soltanto un suono senza senso, e Loto si spaventò e lanciò un grido, tanto che Wang Lung accorse. Scossa dalla rabbia, saltellava sui piccoli piedi, agitando il dito verso la povera bambina che rideva ed esclamò: «Non voglio più stare in questa casa se quella si avvicina. Non mi avevano detto che avrei dovuto sopportare dei maledetti ritardati. E se l'avessi saputo non sarei venuta. Orribili figli che hai!» E allontanò il piccolo che le stava più vicino a bocca aperta, mano nella mano, con la sorellina gemella. Allora una sana collera si ridestò in Wang Lung perché amava i suoi figli e disse bruscamente: Non voglio sentire insultare i miei figli. Nessuno deve farlo, e tantomeno insultare la mia scioccherella. E non tu, che non hai mai portato in grembo un figlio per un uomo. E raccolse i bambini e disse loro: Adesso uscite, figlio mio e figlia mia, e non venite più nella corte di questa donna, perché non vi vuole bene, e se non vuole bene a voi, non ne vuole nemmeno a vostro padre. E alla bambina più grande disse con grande gentilezza: E tu, scioccherella mia, torna al tuo posto sotto il sole. E lei sorrise, e allora lui la prese per mano e la portò via. A farlo infuriare era stato specialmente il fatto che Loto avesse osato insultare la bambina e chiamarla ritardata. E un nuovo fardello di pena per la piccola oppresse il suo animo, tanto che per un giorno e poi ancora 2 giorni non volle avvicinarsi a Loto, ma giocò con i bambini e andò in città e comprò un anello di zucchero d'orzo per la sua povera scioccherella e si rincuorò alla vista del suo piacere infantile per quella cosa appiccicaticcia e dolce. E quando tornò da Loto, nessuno dei due commentò il fatto che non ci fosse andato per 2 giorni, ma lei si diede particolare cura di farlo contento perché quando era arrivato la moglie dello zio era lì a prendere il tè. Loto si scusò e disse: Il mio signore è arrivato qui per me, io devo obbedirgli perché questo è il mio piacere. E restò in piedi finché la donna non se ne fu andata. Poi si avvicinò a Wang Lung e prese la sua mano e se la portò al viso e si fece seducente con lui. Ma pur riprendendo ad amarla, Wang Lung non la amava più interamente come prima e non la amò mai più interamente come in passato. Poi, un giorno, l'estate terminò e un mattino presto il cielo era limpido e freddo e azzurro come acqua marina e un vento pulito d'autunno soffiava con forza sulla campagna e fu come se Wang Lung si svegliasse da un sonno. Andò alla porta della sua casa e guardò i suoi campi e vide che le acque si erano ritirate e la terra si stendeva splendente sotto il vento freddo e secco e sotto il sole ardente. Allora si levò in lui una voce più profonda dell'amore si levò in lui, rivolta alla campagna, e la sentì sovrastare ogni altra voce mai sentita nella sua vita, e si tolse la lunga veste che indossava e le scarpe di velluto e le calze bianche, e arrotolò i calzoni fino alle ginocchia e si erse robusto e rabbioso, gridando: Dov'è la zappa? E dov'è l'aratro? E dove sono i semi per piantare il frumento? Vieni, Cinga, amico mio, vieni, chiama gli uomini, voglio andare sulla terra. 22. Come era stato guarito dalla malattia del suo cuore quando era tornato dalla città del sud, trovando conforto dopo le pene patite là, così adesso, ancora una volta, per opera della buona e scura terra dei suoi campi, Wang Lung fu guarito dalla malattia dell'amore. Sentiva il suolo bagnato sui piedi e annusava la fragranza della terra salire dai solchi che rigirava per seminarvi il grano. Ordinò ai braccianti di andare da una parte e dall'altra e lavorarono molto quel giorno, arando qui e arando là, e Wang Lung era il primo dietro i buoi a far schioccare la frusta sui loro dorsi e vedeva il ricciolo profondo di terra che si rigirava e mentre l'aratro affondava nel suolo. E poi chiamò Ching e gli diede le corde e quindi prese una zappa e sminuzzò il terreno rendendolo una massa fine e ricca, morbida come zucchero nero e ancora scura per l'umidità che portava in superficie. Fece questo per la pura gioia che gli dava e non per necessità. E quando fu stanco, si stese sul proprio campo e dormì, e il sano vigore della terra penetrò la sua carne e così lui guarì dalla sua malattia. Quando scese la notte e il sole fiammante fu tramontato, senza una nuvola che lo smorzasse, Wang Lung entrò a grandi passi nella sua casa, il corpo indolenzito, estremato e trionfante, e tirò di lato la tenda che portava nella corte interna. Là c'era Loto che camminava con le sue vesti di seta. Vedendo la terra sui suoi abiti, lanciò un grido e si mise a tremare quando lui le andò vicino. Ma lui rise. E prese le mani piccole e sinuose di lei nelle sue mani sporche e rise ancora e disse: Vedi, adesso che il tuo signore non è che un contadino e tu sei la moglie di un contadino. Allora lei esclamò con forza: Sì, pure quel che ti pare, ma io non sono la moglie di un contadino. E lui rise ancora e subito se ne andò leggero. Mangiò il riso della sera, tutto sporco di terra com'era, e si lavò di malavoglia prima di andare a dormire. E lavando il suo corpo rise ancora perché non lo stava lavando per una donna. Rise, perché era libero. Poi ebbe la sensazione di essere stato lontano a lungo e all'improvviso c'era un'infinità di cose da fare. La terra esigeva di essere arata e piantata e giorno dopo giorno la lavorò con fatica. Il pallore che l'estate del suo amore aveva steso sulla sua carne si mutò ora, sotto il sole, in un colore bruno e le sue mani, che nell'ozio dell'amore avevano perso i loro calli, si indurirono nuovamente nei punti dove la zappa premeva e i manici dell'aratro imprimevano il loro segno. Quando tornava a mezzogiorno e di sera, mangiava con appetito il cibo che Olà gli preparava, buon riso e cavolo e tofu e buon aglio arrotolato nel pane bianco. Quando a suo arrivo Loto si copriva il piccolo naso con la mano, gridando per il suo odore acre, lui rideva e non gli importava niente e alitava verso di lei il suo fiato robusto. E lei doveva sforzarsi di sopportarlo, perché lui mangiava quel che voleva. E adesso che era di nuovo pieno di salute e libero dalla malattia del suo amore, poteva andare da lei e sbrigarsela e dedicarsi ad altre cose. Le due donne presero così il loro posto nella sua casa, Loto come giocattolo e per il suo piacere, per soddisfare il suo gusto della bellezza e delle sue piccole forme e per la gioia del puro sesso con lei, e Olan come donna che lavorava e che gli aveva partorito dei maschi, che teneva in ordine la sua casa e nutriva lui e suo padre e i suoi figli. E Wang Lung era orgoglioso che nel villaggio gli uomini parlassero con invidia della donna nella sua corte interna. Era come se discutessero di un gioiello raro o di un giocattolo costoso e inutile, e tuttavia segno e simbolo di un uomo che era andato oltre la necessità di pensare solo a mangiare e a vestirsi e che poteva spendere soldi nel piacere, se lo desiderava. E il primo fra tutti gli uomini del villaggio che commentava ad alta voce la ricchezza di Wang Lung era suo zio, che in quei giorni era come un cane che fa le feste e cerca di conquistarsi il favore. «C'è mio nipote che tiene per il suo piacere una donna come noi uomini comuni non abbiamo mai visto», diceva, «e ancora, e vada questa donna che porta abiti di seta e raso come una signora in una grande casa. Io non l'ho visto, ma me lo racconta mia moglie». E ancora, mio nipote, il figlio di mio fratello, sta fondando una grande casa e i suoi figli saranno i figli di un ricco e non dovranno mai lavorare nella vita. Gli uomini del villaggio guardavano perciò Wang Lung con rispetto crescente e gli parlavano non più come a uno di loro, ma come all'abitante di una grande casa e andavano da lui a prendere in prestito soldi con gli interessi e a chiedere il suo consiglio su come sposare i figli e le figlie. E se due uomini erano in lite per il confine di un campo, si rivolgevano a Wang Lung chiedendogli di sistemare la disputa e la sua decisione, qualunque fosse, era accettata. Se prima Wang Lung era occupato nelle faccende dell'amore, adesso che si sentiva soddisfatto, c'erano altre faccende a occuparlo. Le piogge arrivarono nella stagione giusta, il grano germogliò e crebbe. Poi arrivò l'inverno e Wang Lung portò i suoi raccolti ai mercati perché teneva in serbo il suo grano fin quando i prezzi erano alti e questa volta prese con sé il figlio maggiore. C'è un particolare orgoglio che un uomo prova quando vede il proprio figlio maggiore leggere a voce alta le lettere su un foglio di carta e accostarvi il pennello e l'inchiostro e scrivere quel che può essere letto da altri. E quell'orgoglio provò ora Wang Lung. Con orgoglio vedeva tutto ciò e non rideva quando i commessi, che un tempo l'avevano deriso, ora esclamavano: «Bei caratteri, scrive il ragazzo, è proprio intelligente!» No, Wang Lung non si figurava che avere un figlio così fosse fuori dall'ordinario, ma quando il ragazzo nel leggere disse seccamente: «Qui c'è una lettera che ha il radicale del legno, mentre dovrebbe avere quello dell'acqua!» Il cuore di Wang Lung fu sul punto di esplodere per l'orgoglio, tanto che dovette girarsi e tossire e sputare sul pavimento per controllarsi. E quando un mormorio di sorpresa corse tra i commessi di fronte all'acume di suo figlio, si limitò a esclamare: «Cambialo allora, non metteremo il nostro nome a nulla che sia scritto sbagliato». E osservò orgoglioso il figlio che, preso in mano il pennello, correggeva il segno errato. Quando l'affare fu concluso e il figlio ebbe scritto il nome del padre sull'atto di vendita del grano e sulla ricevuta del denaro, i due si incamminarono insieme verso casa, padre e figlio. E il padre dentro di sé si disse che suo figlio era un uomo ed era il maggiore, e ora gli toccava fare quello che era giusto per lui e far sì che una moglie fosse scelta e promessa al figlio, in modo che il ragazzo non dovesse andare a mendicare in una grande casa come aveva fatto lui e prendersi quel che era avanzato e che nessuno voleva, perché suo figlio era il figlio di un uomo ricco e proprietario di terra. Si mise quindi alla ricerca di una ragazza che potesse diventare la moglie di suo figlio, e non era un compito facile perché non voleva una donna comune e ordinaria. Ne parlò con Ching una sera che erano rimasti da soli nella stanza centrale a fare il conto di cosa bisognava comprare per la semina di primavera e di quali semi avevano già. Wang Lung parlò senza aspettarsi un grande aiuto perché sapeva che Ching era un uomo troppo semplice, però sapeva che era fedele come un buon cane lo è al suo padrone ed era un sollievo raccontare a uno così i propri pensieri. Ching stava umilmente in piedi mentre Wang Lung sedeva al tavolo, perché nonostante le insistenze di Wang Lung non si sarebbe seduto in sua presenza ora che l'altro era diventato ricco, come se fossero stati uguali. Ascoltò con estrema attenzione Wang Lung che parlava del figlio e di quello che cercava, e quando Wang Lung ebbe finito di parlare, Ching sospirò e disse, con la sua voce esitante che era poco più di un sussurro: se la mia povera bambina fosse qui e sana, potresti averla per niente e ti darei in più la mia gratitudine, ma non so dov'è, forse è morta, ma non lo so. Allora Wang Lung lo ringraziò, ma si trattenne dal dire quel che aveva nel cuore, cioè che per suo figlio ci voleva una molto più in alto della figlia di un uomo come Ching, che pur essendo una brava persona non era oltre ciò che un comune contadino sulla terra di un altro. Wang Lung tacque perciò sulle proprie intenzioni e ascoltò solamente qua e là, nella casa da tè, quando si parlava di ragazzi o di uomini ricchi in città che avevano figlie da sposare. Ma la moglie di suo zio non disse niente, tacendole il suo proposito. Lei infatti era andata bene quando lui aveva avuto bisogno di una donna dalla casa da tè, era il tipo adatto per sistemare una faccenda del genere, ma per suo figlio non voleva una come la moglie dello zio, che non poteva conoscere nessuna che lui considerasse adatta al figlio maggiore. L'anno volse al termine, tra la neve e la durezza dell'inverno, e arrivò il capodanno, e mangiarono e bevvero, e uomini vennero a trovare Wang Lung non solo dalla campagna, ma anche dalla città, per augurargli buona fortuna, e dicevano: «Ecco, non possiamo augurarti fortuna più grande di quella che hai già, figli maschi nella tua casa, e donne, e denaro, e terra». E Wang Lung, in abito di seta, con anche i figli ben vestiti, ciascuno a un lato, e sul tavolo dolcetti e semi di melone e noci e segni di carta rossa incollati su tutte le porte come augurio per l'anno nuovo e di prosperità in arrivo, sapeva che la sua fortuna era buona.